Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Non ho nulla contro il riconoscimento dei diritti civili, ma non è compito del sindaco fare queste cose. Per cui io trovo che sia giusto il riconoscimento dei diritti civili, ma solamente non solo un sindaco che celebra i malati. Non è che grande rispetto verso chiunque, questa è la mia posizione. Inevitabile, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che questo diventasse in questi giorni, in particolare oggi, il tema, uno dei temi principali, quello delle unioni civili, perché oggi, prima di tutto, in questo giorno, la ministra delle riforme Boschi ha annunciato in Parlamento che domani si porrà la fiducia alla Camera sul disegno di legge relativo alle unioni civili, quindi tra domani al massimo giovedì dovrebbe diventare legge. Ci sono state grandi proteste da parte delle opposizioni, chi proprio contro il disegno di legge ancora tu cure, chi invece contro la questione di fiducia, e dopodiché a infiammare, diciamo, un po' queste polemiche è arrivata, poi è intervenuto oggi anche il Monsignor Galantino della CEI, della conferenza dei Vescovi, che ha detto la fiducia è una sconfitta per tutti. Poi a infiammare ulteriormente le polemiche c'è stato questo intervento che avete sentito, anche se magari non in modo chiarissimo, del candidato a sindaco di Roma Alfio Marchini, il quale ha detto: io non ho nulla contro i gay, contro le persone omosessuali, eccetera, rispetto ai diritti di tutti, ma se diventerò sindaco di Roma non celebrerò le unioni gay. E cioè, chi l'ha sostenuto e chi, per esempio, dentro il PD, come la relatrice di questo disegno di legge, Monica Cirinnà, ha detto, già dicendo così, è fuori legge, perché in questo modo si viola la legge. Quando diventa legge, se i sindaci sono tenuti a celebrare anche queste unioni civili tra persone dello stesso sesso, un sindaco si deve a tenere. Cosa ne pensate? Potrebbe essere il primo sindaco obiettore di coscienza in questo senso? Siete d'accordo o non siete d'accordo? 349-238-6666, come sempre il numero per intervenire con i vostri messaggi o con i WhatsApp, 349-238-6666, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi, giorno e notte, perché ogni tanto la trovate e mi scrivete come faccio, facilissimo, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, lo trovate. E non tanto, voglio dire, se siete d'accordo col sindaco Marchini, ma se su una posizione, se con l'aspirante sindaco, ma con questa posizione, se altri che diventano sindaci o comunque altri che lo sono e dovesse passare, cosa che probabilmente sarà quasi certa, con la fiducia tra domani e giovedì, questo disegno di legge, secondo voi è giusto che un sindaco possa fare obiezione di coscienza in questo senso? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, dopodiché ci occuperemo anche di tante altre cose, come per esempio l'arresto di 5 sospetti terroristi in Italia tra Bari e Milano, anzi 3 terroristi, 2 sono già andati in Afghanistan, e poi parleremo anche del Milan, probabilmente in buona parte ceduto ai cinesi. Ma prima di tutto, come sempre, un riassunto delle notizie più importanti e della giornata, del quadro della giornata. Unioni civili, domani si vota la fiducia, opposizione in rivolta, Monsignor Galantino le definisce una sconfitta per tutti, Marchini annuncia che se sarà sindaco di Roma non celebrerà le unioni gay. Giustizia, prove di dialogo tra il ministro Orlando e l'Associazione Nazionale Magistrati, via libera della Cassazione al referendum costituzionale, sulla prescrizione si va verso un'intesa nella maggioranza. Ministero dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda è il nuovo titolare, l'ambasciatore Massari, richiamato dall'Egitto dopo il caso Regeni, prende il suo posto a Bruxelles. Terrorismo, 3 fermati a Bari e Milano, erano pronti ad azioni in Italia. Un'autobomba scoppia in Turchia e causa 3 morti. A Monaco, in Germania, attacco in stazione, 1 morto, 3 feriti. L'assassino, rivelatosi però un folle, urlava Allah Akbar. Astronomia, si impenna il numero dei mondi alieni, sono più di 3.200. Sport, cessione Milan ai cinesi, primo atto ufficiale. Il CDA di Fininvest dà il via libera e per il ciclismo al Giro vince Ulissi. Partiamo quindi ovviamente dalle unioni civili, dalla fiducia posta sul disegno di legge annunciata dalla ministra Boschi. Non solo le opposizioni, anche la Chiesa si è espressa contro questa decisione del governo di porre la fiducia, rispettati comunque i tempi di rapida approvazione del provvedimento, come aveva annunciato domenica scorsa in televisione Renzi. A nome del governo, autorizzata dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sulla approvazione senza emendamenti né... Colleghi, per favore. Dibattito dir poco infuocato fuori e dentro la Camera dopo l'annuncio formale ormai scontato della fiducia da parte del ministro Boschi, strumento che consentirà di licenziare il testo sulle unioni civili in via definitiva entro giovedì, evitando sorprese dell'ultima ora. La fiducia rappresenta una sconfitta per tutti, tuona il segretario generale della CEI, Monsignor Nunzio Garantino, mentre in aula protestano le opposizioni, Massimiliano Fedriga, capogruppo Lega Nord. I servili colleghi della maggioranza che applaudivano quando mettono la fiducia, vergognatevi! Così anche Alfonso Bonafede, 5 Stelle. È un fatto che su una legge sui diritti civili, nella storia della Repubblica Italiana post-fascista, non c'è stato un governo che ha posto la fiducia. E ad alimentare il dibattito ci pensa anche il candidato sindaco di Roma, Alfio Marchini: non celebrerò le unioni gay se dovessi vincere le elezioni. Parole contro cui si scagliano gli esponenti Dem, a partire dal rivale Giachetti. Io invece non vedo l'ora di votare la legge alla Camera, dice, mentre per la senatrice Cirinna si tratta di una dichiarazione omofoba. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Poi vi dicevo, torniamo a parlarne anche con le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. L'altro tema al centro del dibattito politico è il rapporto teso, ne abbiamo parlato molto in questi giorni, tra politica e magistratura, alla vigilia del referendum sulle riforme a cui la Cassazione ha dato oggi il via libera. I magistrati possono esprimere la propria opinione, ma sull'impegno diretto nella campagna per il referendum di ottobre c'è una questione di opportunità che spetta a loro stessi valutare. Così il ministro della Giustizia Orlando, al termine dell'incontro con il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Davigo, nominato un mese fa. Dell'argomento però nel vertice non si è parlato, fanno sapere entrambi, né di un possibile codice deontologico per le toghe. Il guardasigilli ne discuterà forse domani con il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Legnini. Il tema è delicato, dopo le parole del consigliere del CSM Morosini, che in un'intervista invitava a votare no alla riforma Boschi. Comunque una riunione molto proficua, dice Davigo, è emersa una volontà reciproca di collaborazione sui nodi strutturali, quali la durata dei processi. All'ANM abbiamo chiesto un contributo per un salto di qualità nel migliorare l'organizzazione, spiega il ministro. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E si va verso un'intesa sul tema della prescrizione. Arriva infatti il lodo Falanga. I processi per i reati contro la pubblica amministrazione, dalla corruzione al peculato, dovranno essere analizzati prima degli altri. Il provvedimento presentato dal senatore Verdiniano potrebbe, appunto Falanga, ricomporre la frattura in maggioranza. Il testo, se non abbinato alla riforma, sarà trasformato in un emendamento. Allora sentiamo Ciro Falanga, firmatario di questo dispositivo, intervistato da Edoardo Sirignano. Prevede che i reati contro la pubblica amministrazione siano inseriti in un articolo delle norme di attuazione al codice di procedura penale, per i quali praticamente si prevede che i capi degli uffici giudiziari debbano dare priorità nella fissazione dei processi che appunto attengono a tali delitti. Il testo, se non abbinato alla riforma, sarà trasformato in emendamenti? Sicuramente sì, ove mai non viene abbinato, nel caso non venisse abbinato farò l'emendamento e credo di trovare l'assenso di tutti. Superate quindi le spaccature all'interno della maggioranza? Se la maggioranza lo condivide lo vota, se non lo condivide lascio a loro le determinazioni, via. E Renzi, nella sua e-news, nel suo organo di informazione su internet, ha rilanciato la campagna sul referendum costituzionale. Vedremo chi sta con il popolo, dice, e chi nuota solo nell'acquario della politica politicante, ha scritto Renzi. Nel pomeriggio c'è stata la riunione del Consiglio dei Ministri. Renzi ha annunciato l'assenza del sottosegretario De Vincenti, ascoltato dalla Procura di Potenza, e ha annunciato che sarà Maurizio Massari il nuovo rappresentante a Bruxelles al posto di Carlo Calenda, che sapete oggi è diventato il neo ministro dello sviluppo economico, e al Cairo al posto di Massari andrà Giampaolo Cantini, attuale capo della cooperazione e grande esperto di Nord Africa. Siamo all'economia con governo INPS che intervengono dopo la notizia delle 60.000 aziende che hanno beneficiato degli sgravi fiscali non dovuti. Il ministro del lavoro Poletti interviene sui risultati dell'attività ispettiva dell'INPS, che ha portato alla luce 60.000 aziende e 100.000 lavoratori che hanno chiesto lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato senza averne effettivamente diritto. Noi vogliamo bene alle imprese, ma alle buone imprese che rispettano le regole, spiega Poletti. In Italia accade molto spesso che sugli interventi e sulle leggi ci sia qualcuno che fa il furbo. Poi si fanno i controlli e quelli che sono fuori dalle regole vanno giustamente e duramente colpiti. Quanto accaduto non cambia in maniera significativa i numeri del Jobs Act, dice Poletti, che rivendica quindi i risultati occupazionali raggiunti dal governo, 400.000 posti stabili. Capitolo voucher poi, la stretta sul loro utilizzo dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri entro una decina di giorni, annuncia il ministro, così come sulle pensioni il 20 maggio partirà il part-time agevolato in uscita per i lavoratori, mentre sulla flessibilità stiamo riflettendo su due parametri, costruire una soluzione economicamente sostenibile e socialmente equa. Infine il presidente dell'INPS Boeri sulle buste arancioni. Sono una questione di democrazia, dice, non solo di informazione. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ci occupiamo di terrorismo perché tre uomini di origine afghana sono stati fermati a Bari e a Milano in un'operazione antiterrorismo dei carabinieri. Si stavano preparando ad azioni in Italia, secondo il procuratore di Bari Giuseppe Volpe, che sentiamo. Io mi sono molto complimentato con gli organi territoriali di polizia giudiziaria, in questo caso dei carabinieri, perché questa indagine non nasce, come a volte succede, da input che vengono dai servizi, ma dalla osservazione attenta di personaggi sospetti sul territorio da parte della nostra polizia giudiziaria, in particolare dei carabinieri di Bari. Grazie. Era imminente, procuratore, un attentato in Italia? Questo non mi risulta assolutamente. Poi torneremo a parlare anche della minaccia terroristica in Italia più tardi. E sempre a proposito di terrorismo, almeno 3 persone sono rimaste uccise e 22 ferite dall'autobomba esplosa questo pomeriggio a Diyarbakir, principale città curda nel sud-est della Turchia, al passaggio di un minibus delle forze dell'ordine. Nello scoppio, appunto, sono morte 3 persone, mentre a Monaco, in Germania, un uomo armato di coltello ha sferrato un attacco in stazione. Ha causato un morto e 3 feriti. L'assassino, rivelatosi poi un folle non affiliato all'ISIS come si credeva all'inizio, ha urlato comunque Allah Akbar. Ed è in corso, per andare alla cronaca italiana, è in corso cronaca giudiziaria, la Camera di Consiglio dei giudici della prima sezione penale della Cassazione nel processo per l'aggressione a Lucia Annibali, l'avvocata di Urbino sfregiata, vi ricordate, con l'acido, su commissione, secondo l'accusa, del suo ex fidanzato Luca Varani, che avrebbe assoldato 2 cittadini albanesi imputati insieme a lui. La sentenza è attesa in serata, forse faccio tempo anche a comunicarvela io, la sentiamo. È attesa per le prossime ore la sentenza della Cassazione sul caso Annibali. La prima sezione penale della Corte è chiamata a decidere sulla condanna di Luca Varani, l'uomo che ordinò di sfregiare l'ex fidanzata Lucia, noto avvocato di Urbino. Varani, anch'egli avvocato, era stato condannato in appello a 20 anni di carcere per tentato omicidio, lesioni gravissime e stalking. Nella requisitoria di stamane, il sostituto procuratore generale Paolo Canevelli aveva chiesto il rigetto dei ricorsi presentati da Varani e dai 2 sicari albanesi da lui assoldati per colpire l'ex fidanzata, Altistin Precetai e Rubin Talaban, entrambi condannati a 14 anni, poi ridotti a 12 in appello. Nel ricorso, Varani aveva chiesto che non gli venisse contestato il reato grave di tentato omicidio. Intanto, il 23 maggio dovrebbero iniziare a Pesaro le riprese della fiction ispirata al libro Io ci sono, scritto da Lucia Annibali, con Cristina Capotondi nei panni dell'avvocatessa. E adesso invece... Giuseppe Luongo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stato un piccolo ritardo, diciamo, di firma, comunque. Adesso vi voglio parlare anche di questa guerra del pollo, che in realtà, detta così, anche è un po' buffa, però ci sono di mezzo miliardi, questioni diplomatiche. Gli Stati Uniti e la Cina litigano sul pollo. L'amministrazione Obama intende lamentare presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio di come la Cina gestisce l'accesso delle carni americane nell'enorme mercato cinese del pollo. Washington intende chiedere che Pechino apra il suo mercato al pollo statunitense, pena il rischio di incorrere in sanzioni commerciali, quanto anticipano alcune fonti del Wall Street Journal. E poi parliamo di astronomia. Si impenna più di 3.200 il numero di mondi alieni, ossia di pianeti esterni al sistema solare finora verificati. Ai 2.000 finora noti si aggiungono infatti 1.200 scoperti dal telescopio spaziale Kepler e annunciati questa sera dalla NASA in una conferenza stampa. Siamo circondati praticamente. E poi per lo sport e ciclismo, l'Italia l'italiano Diego Ulissi ha vinto per distacco la quarta tappa del Giro d'Italia, da Catanzaro a Praia a Mare, in provincia di Cosenza, di 200 km, ed è la prima vittoria italiana al Giro 2016. Per il calcio invece, svolta cinese per il Milan, via libera alla trattativa da parte del CDA, c'è stato CDA straordinario della Fininvest per i negoziati in esclusiva, ce ne occuperemo poi nel corso di Effetto Notte come di tante altre cose come vi avevo annunciato all'inizio, mentre voi continuate a scrivere le vostre opinioni sulla possibilità, oggi vi dicevo, Ministra Boschi che ha annunciato che domani ci sarà la fiducia alla Camera sul testo delle unioni civili, protesta delle opposizioni e la polemica è stata infiammata ulteriormente da questa dichiarazione del aspirante sindaco di Roma Alfio Marchini, che ha detto: se diventerò sindaco non celebrerò le unioni tra persone dello stesso sesso, anche se rispetto i diritti di tutti. Marco dice tra la pagina Facebook e il 349-238-6666, leggo i vostri messaggi. Marco: se c'è una legge il sindaco si rifiuta di applicarla, si comporta in modo scorretto, ma se la legge non c'è i sindaci celebrano matrimoni civili, non si infrange nulla. Comunque Marchini doppia faccia, dice: se fosse stato in coalizione PD come sembrava queste cose non le avrebbe dette. Romani, ricordatevi, questa è una posizione di Marco, poi come di tutti naturalmente. Simone dice: Marchini non sarà mai sindaco, se dovesse esserlo vuol dire che manderà un suo assessore o funzionario a celebrarle come previsto dalla legge. Poi un altro messaggio: dura lex sed lex, va bene che ormai tutti i disegni di legge hanno dei titoli in inglese, ma il nostro corpus deriva pur sempre dal latino, dice questo ascoltatore. Se le unioni civili saranno una legge i sindaci dovranno attenersi ed applicarla, punto. Poi invece c'è Silvana da Sestri Levante, i sindaci devono rispettare la legge, e saluta da Sestri Levante, così come invece Carmine saluta da Positano. Beato lui. 349-238-6666 per WhatsApp, SMS oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo dopo la viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi. Ci siamo lasciati per pochi secondi mentre continuano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Vi dicevo che tema importantissimo oggi in Italia, centrale tra le notizie italiane, è quello delle unioni civili. Perché? Perché la ministra Boschi oggi ha annunciato che ci sarà, domani si voterà la fiducia, quindi tra domani al massimo giovedì dovrebbe diventare legge. E però c'è da una parte le opposizioni che hanno protestato molto oggi, sentirete, e poi la CEI anche che è intervenuta con Monsignor Galantino, che ha detto la fiducia è una sconfitta per tutti, e poi l'aspirante sindaco di Roma Alfio Marchini, che ha detto se diventerò sindaco non celebrerò comunque le unioni tra persone dello stesso sesso. Poi scrive Costantino: forza Marchini, mentre invece Ulisse dice: difenderemo la Costituzione adesso sul referendum confermativo con questo, vabbè, il tema è un altro, caro Ulisse. Poi trovo vergognoso che un pubblico ufficiale rifiuti l'applicazione della legge, scrive Giancarlo. Come le nozze gay erano una pagliacciata quando il codice civile non le consentiva, da domani saranno un diritto. Un pubblico ufficiale applica la legge, basta. Mi vergogno di essere in un paese che fa della disapplicazione della legge un vanto, dice Giancarlo, cercando di creare par condicio tra quello che era prima e quello che dovrebbe essere adesso. Benissimo, allora vi ricordo intanto, mentre voi continuate a scrivere le vostre riflessioni anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte e in WhatsApp, quali sono le notizie più importanti di questa giornata, almeno per il momento. Unioni civili, l'avete sentito, domani si vota la fiducia, per la CEI è una sconfitta, in rivolta anche le opposizioni, e poi è scoppiato il caso Marchini, non celebrerò le unioni gay se dovessi essere sindaco. E poi tre afghani fermati tra Bari e Milano, progettavano attentati, a Monaco quattro persone sono state accoltellate, un morto, però pare che l'assassino fosse un folle non affiliato all'ISIS, e poi una bomba in Turchia che fa tre morti. Oggi c'è stato un incontro, prove di dialogo tra i magistrati e il ministro della giustizia Orlando, che dice sono liberi sulle opinioni, valutino loro l'opportunità di esprimerle, insomma. E poi Maurizio Massari sarà rappresentante italiano a Bruxelles, sostituisce Carlo Calenda che oggi ha giurato per diventare ministro dello sviluppo economico. Svolta cinese per il Milan, via libera alla trattativa, parleremo anche di questo stasera. Deputati, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sulla approvazione senza emendamenti. Colleghi, per favore, colleghi, per favore. Colleghi, onorevole Fedriga, per favore. Per favore. Il testo per favore. Approvato dalla Commissione è identico al testo approvato dal Senato. L'avete sentita la ministra delle riforme e dei rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, che ha annunciato che ha posto a nome del governo la questione di fiducia in aula alla Camera sul disegno di legge relativo alle unioni civili. Su questo testo, che è identico a quello che è stato approvato, già votato dal Senato. L'annuncio della fiducia, come avete sentito, è stato accolto da un coro di proteste da parte delle opposizioni. In più è intervenuta anche la CEI oggi, il segretario generale della CEI, Monsignor Galantino, che ha detto il governo ha le sue logiche, le sue esigenze, probabilmente avrà anche le sue ragioni, dice, ma il voto di fiducia non solo per questo governo, ma anche per quelli passati, spesso rappresenta una sconfitta per tutti. Poi vi dicevo che si è aggiunta questa dichiarazione dell'aspirante sindaco Alfio Marchini, che è diventato un caso oggi, perché ha detto: se diventassi sindaco di Roma non celebrerei le unioni civili. In ogni caso, però, sentiamo anche le opposizioni, appunto, come hanno argomentato la loro contrarietà, per esempio Bonafede del Movimento 5 Stelle. Allora vogliamo parlare di fascismo e parliamone. È un fatto che su una legge sui diritti civili nella storia della Repubblica Italiana post-fascista non c'è stato un governo che ha posto la fiducia, figuriamoci la doppia fiducia. È un fatto che su una legge elettorale non c'è governo che abbia posto la fiducia tranne il governo fascista. E poi Fedriga della Lega. Anche i servili colleghi della maggioranza che applaudivano quando mettono la fiducia. Ormai è la dimostrazione plastica questo Parlamento dei servi della gleba per essere ricandidati. Vergognatevi! Vergognatevi! Ancora opposizione, il fittiano Bianconi, ex Forza Italia, adesso conservatori e progressisti. Vieni, senza neanche un dibattito sul complesso degli emendamenti. Non ci ha fatto neanche finire di fare le questioni pregiudiziali, mette la fiducia, porta il sedere e se ne va. Ma dove crede di essere questa qui? Ma dove crede di essere? Ma voi cosa dite? Cosa ci state a fare? Cosa dice invece Salvatore Merlo, commentatore politico del Foglio? Ciao Salvatore, buonasera. Ciao, buonasera. Che devo dire? Cominciamo dalla questione di fiducia. Quando, ecco. Quando le cose diventano veramente importanti, cosa faranno? Le parole qui si sprecano, dici. In libertà e il tono è sempre veemente. E quando diciamo, la veemenza è così diffusa, c'è sempre il sospetto che nasconda, che sia finta, recitata e cialtronesca, ma d'altro canto questa non è una novità e la qualità del dibattito politico e della classe dirigente di questo paese è questa. E questo che tu dici è molto sconfortante, ma secondo te cosa si nasconde dietro? Cioè tu dici non è tanto nel merito della questione delle unioni civili, c'è qualcos'altro dietro? Ma sì, ma c'è un clima da campagna elettorale, si avvicina, ci sono le elezioni nelle grandi città, Milano, 5 Roma, giugno, Torino, quindi tra poco. C'è il referendum di ottobre, poi c'è il congresso del PD e mamma mia, cioè siamo in campagna elettorale da qui a dopo l'estate, che noia, una cosa terribile. Senti, noia e vivacità allo stesso tempo, tu dici noia perché i toni sono questi, perché invece di discutere nel merito dici si agisce in questo modo. Senti, ma sulla questione di fiducia tu che ne pensi? Perché c'è qualche ascoltatore che dice no, non è giusto, andava discusso, eccetera. Qualcun altro che dice, per esempio, questo ascoltatore, vediamo se riesco ad aprire questo WhatsApp, mi muovo tra WhatsApp, SMS, pagina Facebook, dice ho votato 5 Stelle, dice Francesco da Milano, ma sono d'accordo con Renzi sul ricorso alla fiducia, purtroppo non può fidare dei propri parlamentari, il candidato sindaco di Roma ne la conferma, dice Francesco. Perché il candidato sindaco di Roma? No, infatti Marchini non sarà confuso con Giachetti, non ho idea. Comunque, dice, idea. Per qualcuno va bene la fiducia, per qualcuno no. Ma anche questo, sai, poi chi ascolta la radio, sente la televisione, eccetera, rischia di diventare vittima della propaganda e della o forse la politica che diventa veemente perché gli italiani sono di malumore, io non lo so più. Però la fiducia è uno di quegli strumenti di cui da sempre abusano i governi italiani, abusano perché il sistema istituzionale è farraginoso, perché esiste c'è il bicameralismo perfetto, il doppio passaggio, perché con i pasticci che hanno combinato negli ultimi anni con queste continue riforme della legge elettorale, alla fine sono sempre uscite leggi elettorali che non riuscivano a garantire maggioranze solide. Poi in particolare questa legislatura si è caratterizzata per lo squagliarsi di forze politiche, il rimescolarsi delle cose, l'emersione di questo astro che è Renzi, che ha squassato la politica cambiandola, adesso vedremo come va a finire, e quindi la fiducia diventa necessaria per garantire che un provvedimento sul quale la maggioranza e il governo ha investito molto passi, poi insomma le cose deve dirle per quello che sono. Sentiamo Alfio Marchini, perché vedo moltissimi messaggi di, per esempio, dice per esempio Stefano, ok, un candidato si è escluso dalla lista dei candidati civili. Largen che dice ancora queste idiozie, io non ci posso credere, ma stia tranquillo, con questa premessa a Roma non vince. Cioè, al di là di quelli che vanno direttamente su Marchini, mi chiedevo appunto se qualcuno dice il sindaco si può tranquillamente rifiutare, ma sentiamo intanto Marchini. Non ho nulla contro il riconoscimento dei diritti civili, ma non è compito del sindaco fare queste cose, per cui io trovo che sia giusto il riconoscimento dei diritti civili, ma solamente non solo un sindaco che celebra i malati, ma che grande rispetto verso chiunque, questa è la mia posizione. Dice per esempio questo ascoltatore, un sindaco non ha nessun obbligo a celebrare un matrimonio civile, può tranquillamente delegare altri senza fare polemiche o alzare i toni. Questo è anche vero. Però a te che effetto fa, Salvatore Merlo? Che è una non notizia, cioè voglio dire questo, intanto manca anche nell'audio che avete mandato in onda, manca la domanda e non è secondario. E la domanda faceva... Era il forum dei giornalisti all'ANSA. All'ANSA, sì. Faceva esplicitamente riferimento a Ignazio Marino. Che forse che lui ne aveva celebrati quando non c'era la legge, dice come diceva. Sì, quando non c'era la legge aveva come qualche altro sindaco in Italia, aveva fatto registrare nel registro delle unioni quelle coppie omosessuali che si erano sposate all'estero e aveva inventato una specie di cerimonia, quindi si trattava di una manifestazione ideologico-politica, no? Molto forte da parte di un amministratore legittima, ma questo era, no? Ora la domanda fatta a Marchini, lei farebbe la stessa cosa? E Marchini le dice legittimamente e dice no, io non lo farei, cioè non si sente di imbracciare una forte bandiera identitaria eccetera, dopodiché aggiunge io sono favorevole ai diritti, dice anche che i diritti non si negano, si può essere contro l'estensione dei diritti, quindi questa è un'altra un po' cerchio bottista, vuoi dire un po' cerchio bottista? No, non è cerchio bottista, è assolutamente sensato quello che dice, cioè comprensibile dice io non ne faccio una bandiera di carattere ideologico, cioè non la imbraccio, non sono un attivista impegnato per il matrimonio omosessuale, e forse fa capire che non gli piacciono, dopodiché nemmeno dice però si può sostenere che i diritti non vadano estesi, cioè non ha una posizione da integralista cattolico di quelli che vanno al Family Day. Ora su questa roba qua in un paese tranquillo non si imbastisce una violentissima polemica sul quasi nulla, ma siccome siamo in campagna elettorale, per questo si collega fortemente con quello che dicevamo prima e con quei toni così fuori dalle righe che si sono sentiti in Parlamento, perché questo è diventato un po' il paese della campagna elettorale permanente e del malumore, stiamo qua a parlare sostanzialmente quasi del nulla, io non mi sento molto di partecipare in questa cosa, cioè non mi scandalizza e nemmeno mi emoziona, ecco, e mi stupisce piuttosto che i giornali, i siti internet, eccetera, per 3 ore, 4 ore abbiano raccontato questa storia di Marchini con dei titoli che fuorvianti, come se Marchini fosse Mario Dinolfi, ma non è così. Adesso se guardi siti internet, dopo 4 ore hanno capito e hanno cambiato i titoli. Salvatore, però sentiamo cosa ha risposto Monica Cirinnà del PD, che è anche poi la relatrice di questo disegno di legge, relatrice principale, no? Sentiamo. Chi si candida a fare il sindaco di una grande città della capitale d'Italia non può essere una persona che discrimina, quindi non è vero che si rispettano tutti. Il sindaco giura sulla Costituzione, il sindaco giura di rispettare tutte le leggi, Unioni Civili sarà una legge di questo paese, una legge di civiltà che riporta l'Italia in Europa. Quindi io ho solo una tranquillità, visto che Marchini non sarà il sindaco di Roma, presto festeggeremo le Unioni Civili con Roberto Giachetti sindaco. E vabbè, questa è la risposta anche da campagna elettorale, tirando fuori Giachetti. Tutto non lo ha detto, non ha detto che non celebrerà le Unioni Civili, cioè che a Roma non sarà rispettata la legge. Che non lo farà lui, che non lo farà lui. È una sciocchezza, dobbiamo io e te prestarci a tutta questa roba. Ora no, dai, su. Non prestiamoci. Allora, Salvatore, passiamo veramente Subito a Carlo Calenda, che è diventato ministro dello sviluppo economico, e qualcuno ha detto, ma così dopo poco meno di 50 giorni che era lì a Bruxelles, torna a Roma, la sua nomina rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea lo scorso gennaio, no? da parte di Renzi, era stata vista un po' come una mossa singolare da parte appunto del governo Renzi, che aveva indicato un non diplomatico per quel ruolo chiave di raccordo dell'Italia con Bruxelles. Ora invece si richiama subito Calenda all'esecutivo, appunto come ministro dello sviluppo economico. Che cosa pensi di questo passaggio repentino, che qualcuno forse non ha capito bene? E lì è successo qualcosa, cioè va fatta una premessa. Renzi ha un problema di classe dirigente, cioè che le persone capaci da mettere nei posti chiave che lui considera affidabili, cioè fedeli e si può fidare, sono poche. È un uomo che ha preso le redini del Partito Democratico nel modo in cui l'ha preso, cioè con una scalata pazzesca, no? La rottamazione, eccetera, circondato da il vecchio gruppo dirigente sconfitto ma non si arrende, e sta lì in attesa che il cadavere del ragazzino boy scout di Firenze passi, trascinato dalla corrente del fiume, e nella scelta delle persone che lo devono aiutare in questa roba ha compiuto moltissimi errori, cioè si è circondato per lo più di yes men, di gente che non ha premiato la fedeltà alla capacità. Questo è appunto anche effetto del modo e della rapidità con la quale è arrivato in vetta. Calenda appartiene alla categoria di quelli bravi. Ora è successo, è andato, prima è stato mandato a fare l'ambasciatore in Europa, ed è stato mandato lì perché tra gli ambasciatori nel nostro paese non ce n'era, tra quelli che a Renzi piacevano e di cui Renzi sfidava, non ce n'era nemmeno uno che ci voleva andare, no? Perché tutti ambivano a sedi più prestigiosi. A quel punto lui ha rotto con la prassi secondo repubblicana, che era quella che gli ambasciatori sono tutti quelli di carriera, mentre nell'epoca fascista e prefascista gli ambasciatori erano anche di nomina, prima reggia e poi politica di fatto, no? Ha rotto, è ritornato pienamente nella sua disponibilità nel potere del Presidente del Consiglio di farlo, è ritornato a una prassi antica, ha rotto la prassi repubblicana e ha mandato lì il Calenda per questo motivo, sempre perché gli mancano le persone. Dopodiché è successo che si è liberato il posto di ministro dello sviluppo dopo le dimissioni di la signora Guidi, e ancora una volta si è trovato in difficoltà, non sapeva a chi metterci, ha pensato poche pedine da muovere, insomma, aveva poche pedine, ha pensato Chicco Testa, come hanno scritto i giornali, sì. Dopodiché però si è accorto che Testa, per quanto conosca bene la materia dello sviluppo economico, il petrolio eccetera, e anche ha qualche conflitto di interesse probabilmente, perché ha lavorato nel settore petrolifero, e gli è stato sconsigliato di farlo ministro. A quel punto si è guardato intorno e gli è ricapitato sotto lo sguardo sempre guarda Calenda, e lo richiamo qua, che da molto tempo era stato individuato come un bravissimo ministro, un possibile ministro del commercio estero, si sarebbe detto una volta. E quella è la e sua, alla fine lì è arrivato, cioè, quella è stata tecnico, suo è una persona molto in gamba. Bene. Vedremo se saprà. Vedremo, confermarlo. Alla prova. Grazie Salvatore Merlo del Foglio. Grazie a te. Ciao Salvatore, buona serata. Adesso vedo Maurizio che scrive: l'errore più grosso della legge sull'unione civile è l'estensione del diritto alla reversibilità della pensione al superstite della coppia. Dov'è l'utilità sociale? Non la vedo neanche nelle coppie etero senza figli. Ma Maurizio, sono opinioni, comunque è chiaro che se c'è per le altre coppie, se comunque anche le persone dello stesso sesso pagano i contributi, pagano la loro pensione, non si vede perché dovrebbe finire nel nulla o qualcuno un estraneo, che ne so, se è questo il punto. 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Ci sentiamo un momento. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Logisticamente, Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, e voi che continuate a scrivere, anche oltre ad ascoltare i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, e anche al 349-238-6666, che è il numero per i messaggi e per i WhatsApp. Sempre su l'argomento, uno degli argomenti principali di oggi, unioni civili, la ministra Boschi ha annunciato che il governo pone la fiducia che verrà verosimilmente votata domani alla Camera e il disegno di legge dovrebbe quindi diventare legge tra domani al massimo giovedì, per esempio, e le polemiche che sono state scatenate da questa dichiarazione dell'aspirante sindaco di Roma Alfio Marchini, che ha detto: se anche diventerò sindaco io non celebrerò le nozze tra persone dello stesso sesso. Dice per esempio Vanni: è vero, se passa la legge il sindaco che si rifiuta è fuori legge, ma sicuramente utilizzare la fiducia per argomentazioni simili secondo me è la dimostrazione che la nostra libertà repubblicana è finita e che siamo arrivati a uno pseudo dittatura mascherata da Repubblica. Vi ricordo adesso però quali sono le notizie principali prima di passare ai prossimi argomenti e ai prossimi ospiti. Unioni civili, domani si vota la fiducia, opposizioni in rivolta, Monsignor Galantino della CEI definisce una sconfitta per tutti la fiducia, Marchini annuncia che se sarà sindaco di Roma non celebrerà le unioni gay. Giustizia, prova di dialogo tra il ministro Orlando e l'Associazione Nazionale Magistrati, via libera intanto della Cassazione al referendum costituzionale, sulla prescrizione si va verso un'intesa nella maggioranza. Ministero dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda è il nuovo titolare, l'ambasciatore Massari prende il suo posto a Bruxelles. Terrorismo, tre fermati a Bari e a Milano, ne parleremo tra pochi. Astronomia, si impenna il numero dei mondi alieni, sono più di 3200, e per lo sport cessione Milan ai cinesi, primo atto ufficiale, e poi per il Giro d'Italia vince questa tappa Ulissi. Parliamo quindi di terrorismo. Oggi in Germania c'è stato questo folle, anche se ha urlato all'Akbar, prima si pensava affiliato all'ISIS, poi sembra un folle isolato che ha attaccato alla stazione di Monaco 4 persone, 3 feriti e un morto ha provocato. Poi un attentato anche in Turchia c'è stato, che ha provocato 3 persone nel passaggio di un minibus delle forze dell'ordine, pare che sia stato il PKK secondo le autorità turche, ma purtroppo la minaccia terroristica continua anche a farsi sentire in Italia, dove sono state fermate 3 uomini di origine afghana. La cellula sarebbe però composta da 5 persone, altri 2 sarebbero già partiti per l'Afghanistan. Tra le immagini trovate nei telefonini di queste persone arrestate tra Bari e Milano ci sono delle foto, dei video che ritraggono dei punti sensibili di Bari, di Roma e di Londra. Compaiono per esempio anche il Circo Massimo, il Colosseo. Secondo l'accusa si tratterebbe di sopralluoghi per essere attentati terroristici queste foto, questi video girati. In base infatti a quanto hanno potuto costruire e ricostruire i carabinieri del comando provinciale di Bari in un anno circa di indagini, cominciate dopo che uno degli indagati era stato visto e identificato mentre riprendeva col telefonino gli esterni del centro commerciale Ipercop di Bari nel quartiere di Santa Caterina, il gruppo, secondo gli inquirenti, stava progettando attentati in Italia, in Francia, in Belgio e in Inghilterra. Sentiamo per esempio che cosa ha detto a questo proposito il ministro dell'Interno Alfano. Uno degli arrestati stava facendo dei sopralluoghi, adesso noi siamo a valutare tutti gli indizi che sono venuti fuori dalle attività di indagine che anche questa volta hanno funzionato. Il punto essenziale è che non fanno neanche in tempo a programmare il loro disegno criminoso, che noi già li abbiamo arrestati. Fin qui è andata così, stiamo continuando a lavorare perché così continui ad andare. Coinvolgo su questo Stefano Silvestri, ex presidente e attuale consigliere scientifico dell'OIAI, l'Istituto Affari Internazionali di Roma. Buonasera Silvestri. Buonasera. E Alfano ha detto insomma di essere contento che si continui a fare questo lavoro. Il procuratore di Bari ha voluto elogiare le forze dell'ordine territoriali perché ha detto sono loro che si sono accorti di questi tempo fa, che filmavano, riprendevano foto eccetera eccetera. Però Alfano ribadisce ancora che ovviamente non siamo a rischio zero. Quanto ci si può preoccupare? Ci si deve preoccupare, nel senso che per esempio nessuno forse pensa, almeno noi comuni cittadini a Bari, no, come centro di gestione dell'immigrazione clandestina, di crocevia di chi entrava e chi usciva. Beh, naturalmente no, a Bari c'è parecchio movimento e naturalmente dobbiamo pensare anche che molti di questi sono anche mescolati con la criminalità normale. Loro poi hanno un'agenda che è un'agenda da terroristi, però normalmente per quel che riguarda i loro contatti, i loro documenti, la loro vita eccetera, poi in realtà sono collegati in genere con la criminalità più o meno piccola, più o meno organizzata, e quindi dipende da dove hanno i contatti, da dove li hanno presi. Teniamo presente che ci si sta concentrando essenzialmente su questi terroristi di ritorno, no? Quelli che sono stati addestrati o hanno avuto esperienze in Siria, in Afghanistan, nei molti luoghi dove queste cose avvengono, e che quindi si ha a che fare con una realtà estremamente diversificata. Questi sono afghani, qualche giorno fa c'erano dei marocchini, sono stati arrestati degli altri che venivano dai Balcani, cioè quindi c'è una realtà estremamente diversificata, che è quello che rende complicata anche la lotta a questi terroristi. Non sono molti, però sono dispersi e sono diversi l'uno dall'altro, abbastanza indipendenti tra l'altro uno dall'altro, non è che fanno parte di una stessa identica organizzazione. E questo è peggio? Sì, no, condividono la stessa ideologia, guardano gli stessi siti internet, questo dà un po' alcuni strumenti alle forze dell'ordine per agire, ma appunto il problema è questo qua della loro grande, grande diversità e dispersione. Per questo tra l'altro c'è anche una maggiore cooperazione in sede europea, c'è questa riorganizzazione di Europol, dell'organizzazione della polizia europea, proprio per cercare di condividere il massimo delle informazioni, e se qualcuno sfugge a uno perlomeno a vedere se non cade nella maglia dell'altro. Ecco. Ci auguriamo sempre una maggiore collaborazione, visto dopo quello che è successo appunto tra Parigi e Bruxelles. Stefano Silvestri, la ringrazio. Buon lavoro, buona serata, grazie. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora tanti vostri messaggi, ma vi ricordo le notizie principali sono: unioni civili, domani si vota la fiducia, l'annuncio della ministra Boschi accolta dalle proteste delle opposizioni, e poi il caso Marchini che scoppia perché dice se sarò sindaco non celebrerò le unioni gay. Progettavano attentati, abbiamo appena parlato di questi tre afghani fermati tra Bari e Milano, e poi Maurizio Massari a Bruxelles, il nuovo ambasciatore in Europa italiano perché è tornato a casa, diciamo, Carlo Calenda, che oggi ha giurato come ministro dello sviluppo economico. Europa 24 notte. Parliamo di immigrazione. Oggi il Parlamento ungherese ha dato il via libera al referendum sulle quote dei ricollocamenti dei migranti decisi a livello europeo. Questo significa che i cittadini ungheresi potranno esprimere la loro opinione su queste quote. Il nostro Sergio Nava ha incontrato a Strasburgo la parlamentare europea del PD Cécile Kyenge, componente della Commissione Libertà Civili del Parlamento Europeo, e le ha chiesto se questo referendum ungherese possa costituire un duro colpo contro la politica migratoria comune dell'Europa. Sì, è inaccettabile questo referendum e è anche un colpo duro alla democrazia dell'Unione Europea. L'Ungheria ha aderito al progetto europeo, dove noi troviamo nell'articolo 80 la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità, per cui non è l'opposizione di un paese che deve paralizzare tutto un progetto, che deve essere un progetto comune verso l'integrazione europea. Quindi credo che Orban per l'ennesima volta stia utilizzando il suo potere e anche la strumentalizzazione dell'immigrazione proprio per portare avanti il suo progetto xenofobo, e a mio avviso l'Unione Europea non deve rimanere inerme a guardare questo ultimo colpo basso di Orban. Domani ci sarà qui la Commissione Europea, il Consiglio Europeo, si parlerà della riforma, della proposta di riforma di Dublino, della proposta di revisione di Schengen. Voi su questi temi avete lavorato, lei stessa è stata relatrice di una direttiva. Come giudica le ultime proposte della Commissione Europea? Troppo poco coraggiose oppure vanno bene? Poco coraggiose. Il Parlamento europeo si è espresso alcune settimane fa con una proposta molto più coraggiosa e che era espressione proprio della solidarietà di tutti gli Stati membri, ma anche quella dell'equa ripartizione delle responsabilità. Andare verso un sistema centralizzato, cioè andare oltre il paese di primo approdo, togliere le responsabilità al primo paese di approdo dove arrivano i migranti per fare la domanda direttamente all'Unione Europea, non alla Grecia, non all'Italia e non al primo paese. Una proposta coraggiosa verso cui la Commissione avrebbe dovuto andare, ma posso dire che da una parte c'è questo punto debole, dall'altra parte c'è già questa consapevolezza che bisogna ripartire i migranti su tutto il territorio e quindi andare anche verso la responsabilizzazione di tutti gli Stati membri con una sanzione di 250.000 euro per ogni migrante non accolto. Quanto secondo lei Schengen è a rischio di implosione? Schengen è a rischio di implosione finché gli Stati membri non capiranno che l'unico modo per far funzionare il progetto europeo è quello di un'unica visione, una politica unica, non solo sull'immigrazione ma dappertutto, andare oltre gli egoismi degli Stati membri e rafforzare la libera circolazione all'interno di tutto lo spazio Schengen. E questo, a mio avviso, dovrebbe essere accompagnato anche a misure come quella della Guardia di Frontiera e Costiera, proprio per riconoscere le frontiera esterna di ogni Stato membro come frontiera esterna dell'Unione Europea. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. A chi mi dice che bisogna vendere, rispondo che ci sto provando da un anno, ma che vorrei lasciare il Milan in buone mani e in mani che gli garantissero un futuro da protagonista, e preferibilmente in mani italiane. A questo fine, qualsiasi suggerimento è il benvenuto. Anche se non so se qui siano mani italiane, mi sembra un po' a mandorla queste mani o questi occhi, Dario Ricci. Delle mani a mandorla, non voglio neanche immaginarle né augurarle al mio peggior nemico, cara Roberta. Però abbiamo sentito la voce. Qui l'Asia avanza, nello sport. Il Milan prende decisamente, si incammina sulla via della seta, perché i cinesi stanno per entrare nella stanza dei bottoni. Dopo 30 anni sembra pronunciato questo fatidico sì da parte di Silvio Berlusconi, che pure pochi giorni fa aveva rilasciato questo messaggio via Facebook, messaggio che aveva irritato, stando a sentire le fonti anche più vicine alla trattativa, questi potenziali investitori cinesi, ma poi... Perché aveva detto mani italiane, aveva auspicato. Di fatto questo accordo, che lo ricordiamo prevede un mandato in esclusiva di 45 giorni per la vendita, quindi per l'acquisto da parte cinese di questa cordata, andremo poi a vedere quali saranno effettivamente coloro che la compongono, del 70% del Milan con una base d'offerta di 500 milioni, lascia ancora un exit strategy a Berlusconi, perché si sa, il presidentissimo ha nel Milan il suo giocattolo più amato, e l'idea di lasciarlo sicuramente è dolorosa. soprattutto direi forse in questo momento, no? In cui anche lo scenario politico in cui si muove, non gli dà grandi soddisfazioni, esattamente, dice. È molto diverso, però sembra un percorso mai tracciato, evidentemente sia i numeri sia anche il voler uscire tutto sommato ancora bene dalla vicenda calcistica, potrebbe essere questa l'idea che più ha convinto Berlusconi a compiere questo passo, che sicuramente per lui è molto doloroso. Quel che è certo è che se Berlusconi un exit strategy ce l'ha, per il momento quello che è sicuramente bloccato è il Milan, perché per un mese, visto che c'è questo passaggio di potenziale passaggio di proprietà, il mercato acquisti e cessioni è bloccato, quindi sicuramente è tempo che farà fatica il diavolo poi a recuperare, ma che è anche questo parte dell'investimento. Nel frattempo, e vado a chiudere, c'è la finale di Coppa Italia il 21 maggio contro la Juventus, con Brocchi in panchina, e chissà se sarà allenatore gradito anche ai cinesi, a prescindere quasi o malgrado chissà anche il risultato di questa sfida. Certo, portare una Coppa Italia in bacheca sarebbe il modo migliore anche per salutare non solo i nuovi investitori, ma soprattutto il presidentissimo che va via. Forse a Brocchi conviene imparare il cinese, ma non lo so. Grazie Dario Ricci, noi ci risentiamo. Forse pure a noi, vediamo. Anche a noi, sempre utile, alle 22.